ragazzi, scusate, la scaletta stringe e dobbiamo andare avanti. E adesso è un momento intenso. Denso. Allora, vi chiediamo un po' di attenzione. Ragazzi, siamo qua, stiamo parlando con voi, please. Ok, sul palco di PioQ è sempre stato presente il teatro. C'è un ultimo pezzo teatrale che vi presentiamo, estremamente forte e delicato allo stesso tempo. Ultimo intervento teatrale, abbiamo con noi Barbara Apuzzo, che sta prendendo possesso del palco. E intanto, Barbara, diciamo che ci porterai un pezzo di Ausmerzen, Vite indegne di essere vissute, uno spettacolo prodotto dal Teatro della Cooperativa, scritto da Marco e Mario Paolini, Michela Signori e Giovanni De Martis. La regia è di Renato Sarti, con in scena Barbara e Renato. Renato Sarti, lo sapete, è una colonna portante di Partigiani in ogni quartiere, ma questa sera non può essere qui fisicamente, ma è qui con noi, con tutto il suo cuore. Allora, Barbara, ci presenti un pezzo forte. Racconta brevissimamente il primo sterminio di massa nazista. Prima degli ebrei, i nazisti sterminarono 70.000 tedeschi tra malati mentali, portatori di handicap, disabili, bambini affetti da malformazioni, ma lo lasciamo. Sì, vi chiediamo un po' di attenzione, è l'ultimo pezzo teatrale, poi ovviamente andremo di musica, ma Barbara Apuzzo ha qualcosa di estremamente importante da raccontarci. A te, Barbara. Un applauso! Un applauso! Ausmerzen! Ausmerzen! Nonostante le cose tremende che ci stanno dietro, sentito com'è dolce e gentile il suono di questa parola, Ausmerzen. La radice del verbo Ausmerzen, amarzo, è una parola di pastore, sa di terra. Prima della transumanza, gli agnelli e le pecore che non reggono la marcia vanno soppressi. Alla fine della Belle Époque, più di 100 anni fa, i dottoroni dell'eugenetica prendono due strade. Gli inglesi, tu eradicate illness, sradicare la malattia. I tedeschi, Ausmerzen, sopprimere i deboli. Sapete com'è finita, no? Con uno sterminio di massa, il primo sterminio di massa, conosciuto come Action Tefir, azione T4. Action Tefir ha ucciso in gran parte passati per il cammino circa 300.000 vite umane indegne di essere vissute. Allora, Hitler è andato al potere nel 1933, siamo nel 1945, sono 12 anni. È successo tutto in quei 12 anni? No, tutto è cominciato prima, alla fine della Belle Époque. Un tempo così privo di dubbi, in cui la scienza galoppa e gli scienziati sono diventati sacerdoti del futuro. È in tempo dell'eugenetica. La filosofia scientifica nel cazzo e nel cavolo che autorizza a sterilizzare perché non si riproducano le persone cosiddette sbagliate. Sono idee banzane? Ebbene sì, ma che trovano gambe e producono la selezione dei caratteri desiderati e non desiderati. significa in pratica decidere chi vogliamo e chi non vogliamo. O più brutalmente, a te ti tengo, a te ti faccio fuori. Insomma, l'idea dell'eugenetica sfonda, si fa politica e il 14 luglio del 33 viene varata la legge sulla sterilizzazione. A partire dalla metà degli anni 30 la Germania, al ritmo di 50.000 all'anno, sterilizza 400.000 persone. Poi nel 39 il numero delle sterilizzazioni crolla. Verticalmente diventa quasi zero, ridicolo. E perché? Perché nel 39 si smette di sterilizzare? Perché finalmente sono pronti per fare quello che nessuno ha ancora fatto. Ausmerzen, ammazzare, eliminare chi rallenta la marcia. Si passa dalla sterilizzazione all'eutanasia e si comincia Brandenburg, poi Grafenegg, poi Harntheim, poi Sonnenstein. Sentite che bel nome, la pietra del sole. Poi Hadamar. Già, ma questi nomi non sono Auschwitz, Mauthausen. Quelli li conosciamo tutti. Ma questi cosa sono? Sono i luoghi dove hanno imparato a fare le cose. E quello che uscirà dai camini di questi edifici, castelli, ex carceri, sarà Menschlicher Rauch. I casi che i medici T4 prendevano in esame, non erano soltanto schizofrenici, epilettici, sifilitici, tubercolotici, paralitici. No, non erano soltanto bipolari, depressi, con anomalie sessuali, criminali abitudinari, prostitute, alcolizzati cronici, deviati. Non erano soltanto quelli affetti da frenastesia congenita, forme maniacali, distrofie muscolari, encefaliti, deformità varie o artrogriposi. Devo fare uno spelling? No, vero? Bravi, grazie. Applauso, prego. No, non erano soltanto quelli, ma la gamma man mano si amplia a dismisura e a volte bastava essere banalmente un po' sordi, un po' ciechi o avere una leggera balbuzie, un leggero strabismo. Ebbene sì, anche una leggera balbuzie poteva essere l'inizio della fine. Oppure ancora, come succedeva per i Fauschendling, i ragazzi cosiddetti asociali. Tu, adolescente di 12-13 anni, mandavi a fanculo la prof e per te iniziava una trafila che dove ti prontava. Se andrete una volta in visita, in pellegrinaggio a Harntheim, una anomalia balzerà subito agli occhi per un castello del 1600. dei camini squadrati, evidentemente posticci, attraverso i quali i Foschendling, insieme ad altri, erano ridotti a Menschlicher Krauch. Brandenburg, un ex carcere nel quale si fanno le prime iniezioni ai bambini e si sperimentano le camere a gas. Brandenburg è fondamentale, è il laboratorio in assoluto e per eccellenza dove prende avvio questa catena di morte che ammazzerà milioni di persone con la T4 prima e la selezione finale poi. Grazie Barbara, Barbara Puzzo. Grazie di questa generosità, di questo coraggio, perché raccontare questi cosiddetti fardelli inutili, i gusci vuoti. Grazie Barbara. Grazie mille. Grazie anche al pubblico che è riuscito grande a applauso. Era il nostro ultimo intervento teatrale, ma Partigiani in ogni quartiere non è solo musica. Grazie Barbara, e ti aspettano di Là. Diciamo che è soprattutto politica, poi la musica ovviamente, l'arte lo possono essere. Allora adesso invece parliamo di informazione. Paola, scusami, se io ti dovessi dire... No, dillo a loro, vediamo se si sintonizzano. Faccio un monologo. Vai. Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924, lo attesero sotto casa in 5. Beh, secondo me è stop. Di che cosa sta parlando? Scurati l'hanno già detto. Antonio Scurati. È il monologo che avrebbe dovuto leggere in Rai, che come sappiamo bene è stato censurato, un episodio gravissimo. Esatto, e di censure e al contrario di informazione libera vogliamo parlare con un ospite specialissima. Specialissima, tra l'altro è qui. Sì, sono anche in diretta Radio Popolare, è in diretta, c'è lì il gazebo, facciamo anche un applauso a Radio Pop. Radio Pop che ci segue in diretta e qui con noi c'è Lorenza Ghidini, la direttrice, Eccola. La prima direttrice donna di Radio Pop. Grazie Lorenza di essere qua. Tra di noi. Grazie Paola, grazie. Ben arrivata. Grazie. Lorenza, Radio Pop è stata in piazza. Siete stati in diretta dal corteo, com'è andata? Come sempre, in diretta da Piazza Duomo, è andata veramente bene. È stato un corteo veramente speciale. Partecipatissimo, oltre 100.000 persone. Oh. Noi quando abbiamo chiuso la diretta erano le 5 di questo pomeriggio e le ultime persone in Piazza Duomo mi dicono sono arrivate alle 7, cioè ecco. Due ore dopo ancora stava entrando gente in piazza, quindi, e devo dire che quando siamo partiti da Palestro non ci si muoveva, non si camminava, che è sempre un buon segno, e quindi Milano ha risposto veramente a voce forte e chiara. Un applauso a Milano. Beh, diciamo che la chiamata in piazza è stata anche rilanciata dal manifesto, che appunto ha fatto un po' questo collegamento 94-2004. Ci racconti un pochettino... 2024, sì, scusate. Ci racconti un po' questo nesso, no, che si è creato fra i due momenti. Sì, sono passati 30 anni. Nel 1994 Berlusconi era andato al governo portando con sé Alleanza Nazionale, no? Quindi gli eredi del Movimento Sociale Italiano, a sua volta eredi della Repubblica Sociale. Gianfranco Fini, sdoganato e portato al governo, ma noi mai avremmo pensato 30 anni dopo di avere di peggio al governo. Fini è uno che è andato al Museo della Shoah a Gerusalemme e ha detto che il fascismo è il male assoluto. Meloni non dice niente di tutto questo, Meloni non riesce a pronunciare non la parola antifascista. Non ce la fa. Questo è il governo più a destra che abbiamo mai avuto nella storia della nostra Repubblica e quindi 30 anni dopo era doveroso battere un colpo e dire ok, noi siamo diversi, non ci stiamo e l'opposizione la facciamo nelle piazze, perché tanto in Parlamento i numeri sono impietosi, dobbiamo farla noi nelle piazze. E lo vediamo che è il governo più a destra che abbiamo avuto nell'informazione. Sì. Tu Lorenza. Sì, sono veramente rapaci, sono veramente... E poi devo anche dire che da un lato loro hanno voglia di mettere le mani, adesso questo editore Angelucci, che già è l'editore di Libero, si vuole comprare anche la seconda agenzia di stampa italiana, l'AGI, e lui è un parlamentare della Lega adesso, questo tanto per dire. Ma anche in realtà molti giornali c'è come un po' una timidezza verso questo governo, come se qualcuno si autocensurasse. Questo è ancora peggio, perché è veramente un po' tipico dei regimi, no? Tra l'altro adesso stanno anche facendo una nuova legge, perché il reato di diffamazione commesso da un giornalista ti porti in carcere più a lungo di quanto non sia adesso. Quindi cose veramente impressionanti e, insomma, ci vuole veramente una nuova resistenza anche nell'informazione. Quindi continuiamo a scendere nelle piazze, come minimo. Come minimo, beh, mi sembra, insomma, e continuiamo a rimanere indipendenti, che è questo valore più importante che mai. No, è tantissimo ed è necessario. E Radio Popolare in questo, insomma. Ci proviamo, noi siamo editori di noi stessi, se non altro. Non c'è nessuno che ci dice cosa dobbiamo mettere in onda e cosa dobbiamo dire, come la dobbiamo pensare. È tanta roba non oggi, è poco. Grazie mille, grazie Lorenza Ghidini. Buona serata. Grazie anche a Giulia Stripoli e a Matteo Villaci, che sono in diretta là dietro. E a questo punto si va? Si va. Pronti? Siamo pronti. Siete pronti? Fanno così, signore e signori, sul palco di Oh, hanno detto aspetta. Allora, tu mi devi dire chi c'è adesso, perché abbiamo fatto un cambio di... Lo faccio vedere. Vabbè, sono milanesi. Mescolano il rap con il jazz, l'elettronica. Si sono conosciuti al conservatorio. Quindi gente ne sa. Che ne sa. Sono pronti a farci ballare. Sono loro. Sono gli Studio Murena. Ehi, buonasera Milano! Come state? Buon 25 aprile a tutti, tutte! Gigirigia! Ehi! Studio Moon, Gigiri Jazz e Rappa! Bella per te, bella per lei, è bella chiunque l'ascolta. Notte in entrata ed è un'altra nottata che studio tra studio dal corpo. E butto sto porro, che mica più fine sul filtro, rimpallo sul ritmo, ballando a stelliscio. Sono partito dal basso, del passo rimango convinto. Sono scassato come un bambino dentro un canile, resta incantato. E uno scazzo continuo se cago, un umore che andrebbe internato. Parlo perché sono anni che vago, ma hai chiesto di darmi una mano. Ma tutti che fate le pussi, ste cazzo di scuole. Io con l'infradito di sbrano e vivo un po'. Come fa, tu si flussi di flussi nel caos. Sono in maranza che non ti aspettavi, squagliato sopra il suo divano. Nel caso ti chiamo, ma meglio di no, che meglio di noi. C'era un botto, copiate perfette, in sostanza cazzo ci diciamo. Mi correggi, ci dieci coi cifrassi. Quando ti metti coi tuoi jeans stretti, quando ti vesti mentre mi svegli. Siete da Dio quanto cinchieri, ma quali ribelli. L'artista mi chiama, mica sei Elvis. Svedi le botte che prendi, mica le botte che stendi. Cazzo no, non voglio una notte tre grammi. Sono ci sentiamo, siete spessi camminando. Volevamo nuovi messi, li abbiamo persi per la strada. Vinci tutto, ma prendici per mano, scusa i modi un po' scostanti. Siamo i nuovi jazz e clandestini. Come ci sentiamo, si è dispersi camminando. Volevamo nuovi nesti, li abbiamo persi per la strada. Vinci tutto, ma prendici per mano, scusa i modi un po' scostanti. Siamo i nuovi jazz e clandestini. Vinci tutto. Studio Boom Giri. come ci sentiamo, siete dispersi camminando, volevamo nuovi nastri, abbiamo persi per la strada e dici tutto. Ma prendici per mano, scusa i modi un po' scostati, siamo i nuovi jazz tagliate, e come ci sentiamo, siete dispersi camminando, nuovi nastri, abbiamo persi per la strada e dici tutto. Ma prendici per mano, scusa i modi un po' scostati, siamo i nuovi jazz tagliate, dici tutto. The House, direttamente da Milano, fuori dalle circonvallazioni, dalle piramidi d'oro, cresce una vibrazione muschiosa. Una percezione umida. Per tutti i pirati metropolitani, per chi crede alla cultura senza confini, libera ed espressiva, per chi percepisce che non è questione di destra e sinistra ma di sopra o sotto, suo nome è Long John Silver. Parlarti, vedevo chiaro ma con le orbite degli altri, ora mi chiedi tanto perché tanto posso darti, calcinaci in faccia, volti bianchi, figli nati stanchi, fumo cardi, non vado a imparare a farli, la malinconia è caligine, salire di adattarsi, folle mondo infame come tanti, leggo teste, vedo scalpi, indosso fiume da voltoio in bocca, ho denti di sciacalli, giro una brolla, poi gioca ad anticiparmi, il tatto crolla, si imbolla con pesi maxi, nel cervello c'è una gobba, mi tocca addomesticarmi, con la paranoia in spalla e la voglia di sterminarmi, La verità, che la senti di sentirlo, pure scazzi pure qua, tu come Cristo fai pietà. Io sono sempre dato il peggio solo per necessità, che sono Long John Silver. Un'altra sera a bordo con la faccia da stronzo, la testa a mille, con mani d'aria frigge, con il crew faccio di 5, finché poi non torna a casa già sto svolto le donne stile nome Long John Silver. Un'altra sera a bordo con la faccia da stronzo, la testa a mille, con mani d'aria frigge, con il crew faccio di 5, finché poi non torna a casa già sto svolto le donne stile. Finché poi non torna a casa già sto sbocco le tonsille. Il nome è Long Jimmy John Silver. Come ci fate sentire un cazzo di casino per lo studio Murena, il mio 3, 1, 2, 3. E mi ritrovo ancora sulle stesse cose, con la faccia rossa tipo Serse Cosmi. Noi cosmicamente siamo agli antipodi, ma fili di ricordi che forti ci rendono simili, ma cimiti fake. Respiro i brividi dei miei, per sti sghiai frulliamo percorsi ripidi. Siamo cristiano, levi tutto, non distingui più il pensiero so dagli altri, per quanto siano dissimili, boh. Dirò la verità, la vita è una puttana, però a me non ce la dà. Tu come cosa fai pietà? Io sono sempre dato il peggio, solo per necessità, che sono Long John Silver. Un'altra sera a bordo con la faccia da stronzo, la testa a mille, col moni l'aria frigge, con il crew faccio di 5, finché poi torna a casa già sto sbocco le tonsille, il nome Long John Silver. Un'altra sera a bordo con la faccia da stronzo, la testa a mille, col moni l'aria frigge, con il crew faccio di 5, finché poi non torna a casa già sto sbocco le tonsille. Finché poi non torna a casa già sto sbocco le tonsille. Il nome Long Jiggly John Jiggly Silver. Hey yo! Sì! San Donato è nella casa, la Saletta è nella casa, Milano Bovise è nella casa, Milano Gratosoglie è nella casa, Zona 5 è nella casa, ogni cazzo di zona nella casa. Prossimo pezzo è nella casa. Sostanza arrivo al quindi, famo mini mini money, voglio mini mini mini, da ste parti guarda ancora ciò che vedi e come spingi, massacrate ma che bighi, questa fla la rosi bindi, trist, tossi c'è il colisti, si pure non mi fatto senza il codice, il party c'è applauso e busti, ho soldi babysitting, a pranzo te coi biscuits, che poi sono senza voi chi cazzo va mai visto in mano, che poi sono senza voi chi cazzo va mai visto. Un'attitudine dei bordi e pesa chilogrammi, una cacofonia per gli occhi tipo stereogrammi, se c'è nel sorci ciccio cazzo guardi psicodrammi, tracciano parole più degli ideogrammi e basta, soltanto mezza barra a ricordarti che importa, con il corpo surreale a testa bassa, babbo non le canta più ma manco con il canta tu, da quando per rivalsa la mia banda batte in cassa. In sostanza arrivo al quindi, famo mini mini money, vuole mini mini mini, se parti con ancora c'è che vedi come spingi, ma sagrate pacche bighi costa fra la rosa i bindi, tristi, tossici e colisti, sizio pure noi, ma il fatto è stato il codice, il vortice, applausi e fischi, soldi babysitting, a pranzo te coi biscuits, che poi sono senza voi chi cazzo va mai visto i panni, che poi sono senza voi chi cazzo va mai visto i sì. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. Sogno d'eclissi, sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica ad un sogno d'eclissi. sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica, non sogna ed eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica, non sogna ed eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica, non sogna ed eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica, non sogna ed eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica, non sogna ed eclissi. Sotto l'eclissi cade su una frase litica della mia fase litica, non sogna ed eclissi. Hey yo! Ho dormito di nuovo 3 ore, le borse sugli occhi mi pesano assai. Ma non trovo un granché di rimedi, se cazzo di notte non dormono mai. Mi giro pezzato nel letto, cercandoti almeno in online. Ma è inutile esprimersi il petto, se tanto si sente palese che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne vai. E allora fa culo, rimango da solo, ma intanto ti penso una cip. Purtroppo ti penso una cip. Mi svuoto ma accendo una cip. E sempre il male che viene baciandoti in sogno, ma mica scopando una tipa, che solo domande retoriche. Toni che ti esista tutta la vita, ehi. Toni che ti esista tutta la vita, sì. Ma proprio da tutta la vita, sì. Ti giuro da tutta la vita. Mandami due cuori, corro fino a Roma. Mandarmi a male la mattina dopo. Non andiamo più d'accordo con amore e droga. Vorrei aprirti quella vista decisa. Se raggiungerò Nirvana se collassero, mi rifuggeranno in cielo come un astero. Mi dispiace non ti sento senza l'amplifone. Con in tasca cioccolata e con latte. Sti blocchi di marmo come uno scultore fuori. Petti di ghiaccio senza più colore. Uccidi quel po' che è rimasto di sto funky bub. Mi prendo ma tocca rifarlo. Dirti che dopo poi manco ti guardo. Fa culo che palle mi sento una vibra pulita che manco se avessi baciato una volta una tipa per tutta la vita vissuta di gest. La voce vivevo la vita schivando la mente fissando i momenti. Mi prendo ma tocca rifarlo. Dirti che dopo poi manco ti guardo. Tu mandami due cuori, corro fino a Roma. Ma non mandarmi a male la mattina dopo. Siamo più d'accordo come amore e droga. Vorrei aprirti quella vista decisa. Se raggiungeranno il vano se collassero, mi rifuggeranno in cielo come un asteroide. Mi dispiace non ti sento senza l'ampifone. Con in tasca cioccolata. Sì lo so, dovrei trattarti come una signora. Darti 1000 più attenzioni tipo un passerotto. Come chi si chiude gli occhi dentro una stagnola. Dovrei starci sotto tipo un grosso tasto rotto. E non sono stato buono a darti mezza cosa. Non ci ho mai capito un cazzo, lo sentivo un botto. Ma non sai cosa darei per rivederti un'ora. Per quel che pensa di secondo, ma non ti conosco. Mandami due cuori, corro fino a Roma. Ma non mandarmi a male la mattina dopo. Non andiamo più d'accordo con amore e droga. Vorrei aprirti quella pista deciso. Se raggiungerà Nirvana se collasserò, mi rifugierà nel cielo come un asteroide. Mi dispiace non ti sento senza la pinfone. Con in tasca cioccolata che collate. Io penso da tutta la vita, sì. Ma proprio da tutta la vita. Ti giuro da tutta la vita. Sono sotto da tutta la vita, sì. Ehi, ehi, ehi, ehi. Studio Moon. Grazie mille. È la vibrazione spontanea della periferia. O così sia, della provincia. Thank you. se volti imberbe già con gli occhi tristi. Dipinsi l'invisibile dell'etere per mettere sulle altre illusioni ed astrattismo. Ehi, sì lo so che non resisti, ma trovandoci in accordo e non d'accordo siamo intimi. Manchi così tanto che mi sento senza stimoli, argomenti convincenti mentre ti volatilizzi. Che spesso e volentieri è poca roba, la visione di un idiota contro dogmi ed aforismi. Ma spesso il solo mare in cui si nuota senza farsi trasportare contro scogli e cataclismi. E cercherò i tuoi occhi tra la gente, pur sapendo di per certo che per oggi non esisti. Ma l'esistere è un fattore equivalente, quindi quando tu scompari anch'io svanisco negli abissi. La musica è una forma di espressione, ti racconterà di noi se si ascoltare un'emozione. Da un rullante non un defibrillatore, ma scoppia il cuore. Ci si colpevolizza ad ogni errore, ad ogni istante, ad ogni battito. Per ogni decisione c'è una soluzione stretta in fondo al cuore. Ed è volersi ancora bene. Non si può dire quello che siamo, solo quello che non siete. Siamo lo scalpito libero del suo cuore. Siamo lo scalpito libero del suo cuore. Volevo gli occhi liberi, non torbi con i rimeli erediti dagli spifferi. Se solo tu a riempirmeli, parlate troppo piano, se il piano sappiamo è cupo e stiamo agli inferi. Volevo gli occhi liberi, non torbi con i rimeli erediti dagli spifferi. Se solo tu a riempirmeli, parlate troppo piano, se il piano sappiamo è cupo e stiamo agli inferi. Volevo gli occhi liberi. Stiamo esplodendo, talebani, mi parlano i serpenti, pure i cani. Faccio fatica a campare, che pare che in testa piano anche con nami. Adoro il tuo sapore, umami, ruota la tisillabo sui lembi sudati. Terra bruciata, mondo di merda fa terra bruciata, codardi e beh. So che nessuno lo pensi, ma beh, so non è vero che pimpa da te. Trovo pure l'ansia, una scelta nel sé. So che dipende da te, what you room. Brucia la pelle, zia, staccati tu. Quando il mondo ti cracca, tu spaccali tu. Ti sembra un po' spento, ma calza di più. Paghi tu, ma li buca di giù, cali pushi. Le mosche sugli occhi ma parli lo stesso per tutti. La mia lingua è molla se mi troia, fa sesso con giuzzi. Ho una testa pesante, pulsante, non credere bullshit. Paese di fasci, tu bruciali tutti, bro. Mi spiace, io faccio quel cazzo che posso, però lo dissi una volta, non voglio essere quello che ciao. È meglio di deserto da solo di sta malattia. Pezzi di merda, la vita è mia. Italia d'infami che piega le vertebre e a culo la trama, uomo da giovane verte. Io Vasco da Sgrano, tu Niccolo d'Erbe. Il golf è l'Havana con trappino per spinoce fino a che cade tutto, minimale ma mica è tutto. Un giorno con noi sono 12 puzzi, sto clavati l'anima, spiega la dursa, ne sa faccio. Mamma c'è la mente, sto mondo TV, quando l'ansia ti craca, tu sfaccali tutti, ti sembra un po' spento, ma incalza di più, paghi tu, ma li buca di giù, cali push. Hai le mosche sugli occhi ma parli lo stesso per tutti. La mia lingua è molesta e mitraglia, fa sesso con gli uzzi. Ho una testa pesante, pensante, non gridare bullshit. Paese di fasci, tu bruciali tutti, bro. Mi dispiace, io faccio quel cazzo che posso, però lo dissi una volta, non voglio essere quello che ciao. È meglio di essere da sola di sta malattia. Pezzi di merda, la vita è mia. Come cazzo è? Vi state divertendo, vi state scaldando? Sì! Quando volete, maestri, arriviamo. Hey yo, ho video trippa nella casa, Special Dad. On the man. Persi in mezzo a tutto e niente, mille connessioni vuote della gente. L'amore a volte uccide, la noia ci difende. Mascheriamo tutto con la nostra indifferenza. Interferenza grigia senza cifra, tale che la faccia che si pensa mica, faccia male e non ci pensi mica. E lo capisce il primo sguardo, che campo di emozioni fa fatica ad adattarsi. E il dolce un baclava sopra i baffi. La vita ci ballava sotto i tacchi, ma la vita non si ferma mai più in ciampi. E ci troviamo sotto sopra in una casa coi fantasmi. Vai via, ma non so, ho quello che vuoi ma non ti do. E sento il batticuore, cazzate d'odio. Due coglioni intrappolati in una love story. Vai via, ma non so, ti cerchiamo in verità ma non ti do. E sento il batticuore, cazzate d'odio. Due coglioni intrappolati in una love story. Io non so dire cosa voglio, e non so dire cosa posso. Non so darmi mai una regola, mi scordo cosa sogno. Ma so scrivere emozioni tra le righe sopra un foglio. Tutto finisce a noi, rimane poco a cui aggrapparci. Adattarci sopra i vetri a piedi scalzi. E non esiste un solo modo per amarsi. È vero, ogni modo a modo suo fa male agli altri. Mi manchi a male bimba dipinta negli astri. Perché qui non esiste ogni fissa che c'hai. Ti mando un beat, poi uno split, poi due barre. Un bel bacio dalla terra, noi quanti ne vuoi. Rimani qui per sentirmi distante, per dirmi quanto è triste, ma senza di noi. Ti mando un beat, poi uno split, poi due barre. Ti mando un beat, poi uno split, poi due barre. Vai via, ma non so, ho quello che vuoi ma non ti trovo. E sento batti i cuori in piazza dell'oro. Due coglioni intrappolati in una love song. Vai via, ma non so, cerchiamo in verità ma non ti trovo. E sento il batticuore incazzare l'oro. Due coglioni intrappolati in una love song. La dipinta negli astri, perché qui non esiste ogni fissa che c'hai. Ti mando un beat, poi uno split, poi due bar. Un bel bacio dalla terra, ne quanti ne vuoi. Rimani qui per sentirmi distante, per dirmi quanto è triste, ma senza di noi. Ti mando un beat, poi uno split, poi due bar. Ti mando un beat, poi uno split, poi due bar. Vai via, ma non so, ma quello che vuoi, ma non ti trovo. E sento batti i cuori in piazza dell'oro. Due coglioni intrappolati in una love story. Vai via, ma non so, ti cerchiamo in verità ma non ti trovo. E sento batti i cuori in piazza dell'oro. Due coglioni intrappolati in una love story. Ma non so, ti cerchiamo in verità ma non ti trovo. Sento batti i cuori in piazza dell'oro. Due coglioni intrappolati in una love story. Vai via, ma non so di cercare verità, ma non ti trovo. E sento batti cuori in piazzale Lodi. Sento batti cuori in piazzale Lodi, arrivano gli spiriti. Au! Studio La Vic Murena per voi questa sera. Col prossimo pezzo vi salutiamo. Speriamo vi divertiate. Siate stati e state bene. Soprattutto, viva il cazzo di 25 aprile, fateci sentire un casino gigante. Ai, ai, ai. 16 agosto, Milano di merda, a cena mi ingozzo, un piatto di verde, ho davanti una stronza e una boccia di ferne. Mi dice fratello tua pelle dovresti parlare un fottuto psicologo. Ma papà gli attacchi di paura mi lasciano attogli. Ma bevi un po' meno caffè che ti buca lo stomaco. Poi dormi una sega e c'è gli occhi anneriti dal sonno. Ma frate sei scemo dal tonico e sembra un santone baciato da Monaco. Vabbè ma nessuno è perfetto. Cristo ma mollami, mollami. Hai l'odio cazzare e colloni. Mi mandano a male con loro riprove, riprodi. Mi sei massacrati con gli anni non di velo. Muoviti, dammi risposte a me le regai. Bling, bling, dalla pills che serve come ripoglio voi. Verrà un sfocchimento, una pratica di follia. Ridi fuori e muori dentro, capisci l'allegoria. Dimmi che sbaglio, pagane un altro, portami in alto, carriere blanco. Tutto tu, broma tu, cosa che mi pari col culo a ventaglio. Sono tutti bravi a dare danna dritta, ma nessuno riga mai dritto. Sono tutti in bagno a fare righe dritte sul piatto un mese da pino. Dovrei farmi fuoco e campare col culo degli anni per stare tranquillo ma fare la squilla. Nemmeno se fossi sposato con figlio per questo zio mollami. Mollami, ho i nodi a cazzare e colloni. Mi mandano male con loro riprove, riprodi. Mi stiamo assaggiando i coglioni, non ti fallo più. Muoviti, dammi risposte a me le regami. Bling, bling, dalla pins che serve con me i polmoni, non ti fallo più. Mollami, ho i nodi a cazzare e colloni, non dimmelo tu. Mollami, mi stiamo assaggiando i coglioni, non dimmelo tu. Muoviti, dammi risposte a me le richiamo. Mona, pure di mona, amiche, mi faccio più mai danno. Verrà un sbattimento, una pratica di follia. Ridi fuori, muori dentro, capisci l'allegoria. Senza meta contro mono in galleria. Senza cazzo nelle tasche, così sia con la polizia. Con tutte se sbatti, ci pigo da sorso. Sono tuo padre, ma ti strappo la gola. Il cuore che batte, mi porto da solo. Lasciami in pace con padre, ne ho pieni coglioni di tutte se pare. Per questo zio malami, malami. Ho i nodi a cazzare e colloni. Mi mandano male con loro riprove, riprodi. Mi stai massacrando i coglioni, non ti velo. Muoviti, dammi risposta, me li regalami. Bling, bling, bling, dalla pins che serve come i polmoni, non ti velo. Malami, ho i nodi a cazzare e colloni, non ti velo. Malami, mi stai massacrando i coglioni, non dimmelo tu, su. Muoviti, dammi risposte nelle aerei. Chiamo mano a muro di mano amiche, mi faccio più maricano. E io ho suonato per voi questa sera la chitarra, il maestro Midionana alle elettroniche, il maestro Giovanni Ferrazzi alla batteria, il maestro Marco Falcon al basso, Maurizio Cazzola alle tastiere, Matteo Castiglioni alla voce, Carmelo Bene sul cazzo di palco per voi questa sera allo studio Moon. Buon 25 aprile. Grazie Studio Murena. Grandissimi Studio Murena. Grandissimi. Grazie ragazzi, grazie, grazie. Come state voi? Come va? Coperti, coperti. Una marea. Una marea. Una marea, però avete perso qualcosa. Facciamo l'angolo ufficio oggetti smarriti. Ufficio oggetti smarriti. Allora, attenzione bene. Abbiamo trovato un paio di occhiali da vista. Una chiave di un... una vespa. Potrebbe essere una vespa. Poi abbiamo trovato un telefono, uno smartphone. Un telefono, quindi venite sempre qua. E là. Chi ha perso deve venire qua vicino, dice, poi c'è Silvia che vi interrogerà per valutare se siete voi i veri proprietari. E poi Alessia Noral, hai perso un documento, Se conoscete Alessia, mandatela sempre qua nelle retrovie, è una cosa importante quella che ha perso. Quindi poi cercate di non perdere... Però ci siamo noi. Ci siamo noi che raccogliamo i vostri pezzi. Adesso abbiamo... due interventi, abbiamo due storie bellissime che saliranno, anzi sono già salite sul nostro soppalco, sul nostro trabattello che diventa in questo caso la prua di due navi che... si battono nel Mediterraneo, che sì, salvano vite. Loro sono tra l'altro un salvatore, cioè Luca Marelli di Sea-Watch che pattuglia dall'alto i nostri il Mediterraneo mari, e un salvato. Ibrahima Lo, tra l'altro Ibrahima, tu sei anche uno scrittore, hai scritto Pane e Acqua, e è proprio il libro, anzi Pane e Acqua, Senegal... scusate, dall'Italia, no, dal Senegal all'Italia, passando per la Libia, ed è il libro da cui è stato tratto Mio Capitano, il film di Garrone. A voi lasciamo la parola, quindi un applauso a Ibrahima e a Luca. Tra l'altro Luca, tu sei l'unico milanese attivista in Sea-Watch. Confermo, siamo confermi. Vai, a voi la parola. Milanese. Buonasera a tutte e a tutti, buon 25 aprile, per noi è un onore essere qua stasera perché consideriamo quello che facciamo in mare, il soccorso in mare, un gesto antifascista. Per noi soccorrere le persone nel Mediterraneo centrale è un atto politico, perché le persone non si trovano lì per caso, ma perché sono costrette a prendere imbarcazioni per raggiungere le nostre coste, sono costrette da politiche dell'Unione Europea e dell'Italia che sono intrinsecamente fasciste, razziste, xenofobe, quelle delle Fortezze Europa, quella del sistema dei visti, e quindi noi siamo lì per denunciare questo sistema e per lottargli contro. Chiaramente questo da fastidio, le nostre operazioni sono oggetto di attacchi, di campagne di criminalizzazione, come tutte le lotte da parte dello Stato italiano e dall'Unione Europea. Negli anni siamo stati coinvolti in indagini penali, l'anno scorso su questo palco c'erano i compagni e le compagne di Juventa che lo scorso 19 aprile, dopo 7 anni di indagini preliminari, sono stati prosciolti, perché dietro a quell'inchiesta non c'era niente se non la sola volontà di bloccare la loro nave, che è stata lasciata 7 anni ad arrugginire in mare, ad oggi è assolutamente inutilizzabile. Quindi lo sappiamo, diamo fastidio, ma continuiamo a farlo perché è giusto, perché è un atto politico e perché è necessario farlo, e continuare a lottare contro la Fortezza Europa. È bello farlo insieme come flotta civile, insieme alle altre organizzazioni, alle altre realtà che si occupano di Mediterraneo centrale, per cui stasera sono davvero contento poi di passare la parola a Ibrahima, che rappresenta stasera Mediterraneo. Buonasera a Milano, grazie di avermi ospitato qui in questo palco del 25 aprile, che è una giornata molto importante per tutti noi. Io comincio il mio discorso a ringraziare Luca e tutti gli altri ONG che sono qui, e tutti i movimenti, tutte le associazioni, tutti coloro che lottano per cambiare questo mondo. Io sono Ibrahima, sono un giovane africano, sono un occupaggio di terra di Mediterraneo, sono un human. Tra l'altro oggi, dopo tanti giorni che siamo stati fermi per causa di salvare le vite umane, perché viviamo in un mondo che salvare una vita è un reato, per cui oggi abbiamo avuto la nostra libertà di poter tornare di nuovo in mare. Io sono Ibrahima, sono stato salvato, mi hanno salvato quando avevo 16 anni nel mare Mediterraneo, quando rischiavo di morire in mare, quando rischiavo di finire insieme con le pesce sotto il mare, quando ho visto i miei fratelli che sono morti davanti ai miei occhi, i miei sorelli, quando ho vissuto 6 mesi nei lager in libici, quando ho attraversato 9 giorni nel deserto, perché non avevo la libertà di movimento, di poter viaggiare, di poter andare in un aeroporto con un passaporto, di poter salire su un volo, di poter andare dove volevo. Io non avevo questa libertà di andare in un paese dove posso avere un futuro migliore. Per questo motivo mi sono sentito, dopo tanti anni, che io non posso più essere fermo, non posso più guardare ancora i miei fratelli e i miei sorelli che muoiono in mare. Per questo motivo mi sono alzato, ho detto ora basta, ora devo andare a salvare le vite umane, perché il Mar Mediterraneo sta diventando uno dei cimiteri più grandi del mondo, perché ogni giorno ci sono gente che muoiono dentro. Quelli che muoiono dentro, noi qui in Europa sentiamo solo i numeri, 100, 200, 300, 400 persone, ma questi sono vite come Ibrahim, perché io potevo essere uno di loro e ero uno di loro, per fortuna che mi hanno salvato. Per questo motivo dico grazie ai ONG che salvano in mezzo al mare. Il 25 aprile per noi è un ricordo della libertà, ma noi popolo africano vogliamo avere la nostra libertà. Noi da anni, io sono nato sotto colonialismo e non vorrei morire sotto il colonialismo. Io sono nato vedendo i miei fratelli e i miei sorelli che vivono sotto il colonialismo, come quelle che hanno vissuto i miei nonni e i miei bisnonni. Quelle catene che noi oggi ricordiamo, quelle catene esistono ancora. Quelle che sta succedendo nei campi libici, in Libia, tra l'altro c'è l'Italia che ha fatto questi campi. Il 25 aprile noi dobbiamo imparare, dobbiamo studiare, dobbiamo ricordare di non sbagliare ancora, ma purtroppo stiamo continuando a sbagliare. Guardiamo quelle che abbiamo fatto in Libia, quante persone vengono messe dentro questi campi, quante persone vengono uccise dentro questi campi, ma questi quante persone escono questi campi con i loro cicatrici, come quelle cicatrici che ho portato oggi sopra il mio pelle. Io credo che questa data dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare, deve far riflettere noi umani, che l'essere umano deve andare avanti ma non deve mai tornare indietro. E noi adesso stiamo tornando troppo indietro. E quello è sbaglio che i primi hanno fatto, lo stiamo facendo pure noi. Perché quelle che i primi hanno vissuto, lo stiamo vivendo ancora noi. Giovani che muoiono, che perdono i loro genitori. Giovani che diventano orfani. Giovani pure che vedono le loro case che vengono bombardate ogni giorno. Come quelle che stanno facendo nel Congo, come quelle che stanno facendo nel Sud Sudan, come quelle che stanno facendo su vari paesi africani. E quello noi giovani africani non lo vogliamo. Noi vogliamo un'Africa libera, vogliamo che queste persone vengano salvate, quelle che loro fanno in mare Mediterraneo. È un dovere ma non è un reato, perché salvare una vita di un essere umano è un dovere. Per quello i partigiani oggi sentono grazie, perché hanno salvato un popolo intero. Io vorrei dirvi che di là c'è un banchetto di Mediterranean Seven Humans, c'è un banchetto di Sea-Watch e altri che vanno a salvare vite umane. Se volete salvare le vite umane, prendete le magliette, andate a lottare, a sgridare, a parlare, perché tutti ce la facciamo con questo governo fascista che abbiamo qui. È un governo che noi giovani, a noi giovani fa schifo, perché noi... Ibrahima, grazie. Grazie. Ibrahima Lo e Luca Marelli. Grazie a voi. Sea-Watch Mediterranea, ci sono anche i loro banchetti come quelli di altre realtà. Abbiamo ancora un intervento importante, alcune sezioni ampi che si interrogano su cosa sia l'antifascismo oggi, a sezioni ampi che hanno... aderito e sostengono partigiani in ogni quartiere, e lasciamo la parola a lui. Buonasera a tutti e a tutti. Siamo un nutrito gruppo di sezione, come avete sentito, dell'Ampi di Milano e provincia, e ci tenevamo molto ad essere qui su questo palco, perché il 25 aprile per noi è importantissimo e vuole ricordare e festeggiare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. La riconquistata libertà è l'inizio di quel percorso di crescita demografica e di emancipazione sociale e politica del popolo italiano, che vennero poi sanciti nella nostra Costituzione. Costituzione le cui origini, come diceva Pietro Calamandrei, vanno ricercate nelle discussioni nate intorno ai fuochi in montagna tra i partigiani e non nel chiuso di stanze segrete. Partigiani di allora che, giovanissimi, cresciuti negli anni del fascismo, scelsero in situazioni drammatiche da che parte stare e quali valori affermare. e lo fecero con gli scioperi nel 43 e nel 44, con le armi e con la forza di idee giuste, per conquistare democrazia, giustizia sociale e pace per tutti i popoli. Fecero guerra alla guerra. Quei partigiani e quelle partigiane che, pur avendo il sostegno di tanta parte della popolazione, pagarono un prezzo altissimo, fatto di morti, deportati, torturati per il loro schierarsi dalla parte giusta della storia. Siamo qui per dirvi che l'Ampi c'è e ha bisogno di tutti voi, ragazzi, del vostro impegno, della vostra intelligenza, della vostra partecipazione espressa direttamente nelle sue sezioni, nei suoi organismi. Siamo qui, noi donne e uomini dell'Ampi, per favore ascoltate, per dirvi che ci siamo oggi, come sempre, per fare resistenza, per continuare quella lotta che oggi significa anche stare con il popolo palestinese sotto attacco, senza cibo, acqua e cure mediche. Significa lottare contro l'immane genocidio a cui è sottoposto dal governo israeliano. Significa essere contro la politica di apartheid operata da Israele in Cisgiordania. Significa sostenere la donna, la lotta delle donne e degli uomini curdi massacrati a turno dall'ISIS, dalla Turchia o dagli eserciti di altri paesi. Significa stare dalla parte delle donne iraniane e di tutti i popoli oppressi che lottano per la propria emancipazione e per la propria libertà. Resistenza oggi significa agire contro la politica migratoria di questo governo fascista, perché tale esso è, e ancora contro la sua politica sociale, contro la sua becera cultura macista e razzista, contro il suo uso della forza per reprimere il dissenso, contro la sua politica estera che chiude la porta ai poveri e la spalanca ai capitali, contro lo stravolgimento della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, contro l'aumento delle spese militari, contro lo sfruttamento delle risorse della terra con dispregio dei popoli e delle persone che vi si oppongono, con le trasformazioni costituzionali che vengono proposte di premierato e di autonomia differenziata, si azzererà la partecipazione popolare alla vita politica del Paese e si annullerà il ruolo del Parlamento, concentrando il potere nelle mani del capo, una storia già vista. E noi tutti insieme non possiamo permettere che questo avvenga. Non dobbiamo accettare che i valori fondanti della nostra Costituzione vengano cancellati e che il frutto più bello conquistato dalla dura lotta partigiana venga ridotto a strame. La Resistenza oggi si compie in tante battaglie, nel sostegno a Gaza, nel fermo no ai CPR, nella difesa della Costituzione, nel chiedere incondizionatamente la pace e nel ribadire il nostro no alla guerra, come recita l'articolo 11 della Costituzione. Noi abbiamo il coraggio di schierarci, sempre. Esiste un filo rosso fra i partigiani di ieri e quelli di oggi, fatto di sentimenti, idee, emozioni e valori. Se voi siete qui stasera è perché siete antifascisti, perché parteggiate, così come chiedeva Gramsci. Allora vi chiediamo di stare sempre insieme in questa resistenza. L'Ampi nacque ieri dal popolo antifascista e noi oggi siamo la sua continuazione. Abbiamo radici solide che non devono mai smettere di estendersi. Buona liberazione a tutti e a tutti. Ora è sempre resistenza. Ora è sempre resistenza. Ora è sempre resistenza. Ora è sempre resistenza. Grazie Ampi, grazie alle sezioni Ampi. E adesso Paola. È il momento di vibrazioni positive sul palco di POQ. Continuiamo con le vibrazioni positive intanto che le sezioni ampi scendono. Agevoliamo la discesa delle ampi. Premono gli artisti, una donna fantastica, italo-senegalese, nata e cresciuta a Bergamo. È qui con noi per portarci sul palco un po' di reggae. Awa Fall! Ed è un onore per me cantare insieme a voi questa canzone. Old pirates, yes they robbed us, so die from the merchant ships. Minutes after day to cry from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to say? Cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them. How long shall they kill our prophets while we stand aside? Some say it's just a part of it, but we got to fulfill the book. Won't you have to say this song of freedom? Cause all I ever had, redemption song, yes I, redemption song. Redemption song. Tell him, tell him. Ok Milano, ci siamo sì o no? Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, but we got to fulfill the book. This song of freedom was all I ever had. Redemption song, yeah now. Redemption song, till and now. The song of freedom now. Reggae! If they can stop this fruit, they will pop this fruit. She does like a prostitute, not this youth. See me, my cocky suit, got great fruit. Complaining on God's salute, try by truth. Some people can be mute, share my YouTube. Babylon can't regroup. Babylon can't regroup, say. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. Shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it, but we got to fulfill the book. Won't you help to? Yeah! c'è un'energia pazzesca. Il gruppo che ha suonato prima a Studio Murena mi hanno impressionato, li avevo già sentiti a Torino, ragazzi, complimenti, tanta roba. Andiamo avanti con il prossimo pezzo che si chiama Every Day is War, perché la musica talk about reality, you know? Yeah! Introduction. My name's Sister Awa, representing freedom. And some of them are asking where me come from. Original Senegal from Africa. Let's talk about you and me. What we really need is humanity. No more corruption, no more destruction. We break the chain, fire burns slavery. And he knows it feels it. It's connected to your soul, it's real. It's, yeah, like gold and silver. Babylon is also cold. Let's live up, yeah. We get to live a better way. That's the 13th day, I think, when I wake up every day. Look around, what my brothers and my sisters say. Life is not a game, I ain't got to play. Every day is war. Every day is war. Every day is war. I want revolution. Somehow liberation. Right now, someday we'll change. Organize and centralize. We got to realize. Open up your eyes. Open up your heart. Your present is your future. Don't let them see the news. If you are with my show, what would you do? Can't understand how one thing I can't understand why some people live in this condition and other people them I do the oppression. Me far away from home in a foreign land. Me put repatriation in a me blood. I am a warrior and test this for my. We live in a world ruled by hypocrisy. No more atrocities, it's a shame. Now it's time to live in a conscious way. Every day is get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, no! ci ricorda tutte le volte che lo ascoltiamo nel nostro stereo. Music never die, you know? Get up, stand up, jump, stand up, hold your right, oh good Lord. Get up, stand up, don't give up the fight. Che voce qua? You preacher man, don't tell me. Heaven is under the hurt. You are dumb and you don't know what life is really worth. Story has never been told. So now we see the light. The light. Stand up for your eyes. Come fa? Yeah. Get up, stand up. Sister, stand up for your eyes. Oh, good Lord. Get up, stand up. Show. Don't give up the fight. See, take it up. Get up, stand up. Stand up for your eyes. Perché alla fine la musica è una cosa seria e noi artisti underground abbiamo un sacco da insegnare a quelli che invece fanno la vita di lusso con le loro belle canzoncine, ma siamo tanti qua questa sera, dietro ed è fuori, e siamo dei fighi! Sì! E questo invece è un pezzo, forse ci sarà qualcuno tra di voi che amo la soul music, la musica quella che ti fa piangere, perché piangiamo alla fine, chi di nascosto, chi in pubblico, chi... Beh... Sì! I say yeah! Yeah! Ok, basta, sennò perdo la voce. Back to the middle. Incontriamoci in mezzo, facciamo tutti quanti un passo verso l'altro. E vi chiedo scusa perché non è una mia canzone, ma la amo. Quindi metto il testo del cellulare perché dicevo sbatti di andare a stampare il testo. Però un po' la so, te lo giuro. E la dedico a mio fratello, quel gran pezzo di merda, perché poi alla fine in famiglia un po' ci si odia, ma alla fine ci si ama. E fa... She's 25, spent over half of her life, so afraid, piano piano, to speak her mind. Such a shame, so all the brilliant mind she has. And now that she is introduced to confidence, she doesn't see that she is bothering a man again. When will she learn to come back to the middle? Low, low, low, low, low, low, low. He is a young black man, grew up without his father, and now it falls into his hands to protect his father. And if he doesn't, well then who will? Is who the brother lives in fear of everything, especially trying to steal his father's shoes. Respectably, they go to extremes of masculine and feminine, yeah. Chasing dreams, but they keep on falling, cause they don't know no bad. When will they learn to come back? When will they learn? Come back together, come back, come back, come back to the middle. Come back, come back, come back, come back to the middle. Come back to the middle. Grazie! Vai, abbiamo un altro pezzo di Marley, perché in queste celebrazioni così importanti lui è in prima linea, lo sapete. Su le mani, su, su, su! Could you you be Lord? Could you be Lord? Could you be Lord? Could you be Lord? And be Lord? It's hard sometimes. Could you be Lord? And be Lord? Don't let them fool ya. Try to school ya. Oh no, we got a life to live. Say, Lord, could you never leave us alone? I am the darkness, the most come out the light. Could you be and you may stumble too. So why do you point your finger? Someone else is judging you. I say, could you be Lord? Could you be Lord? Could you be Lord? Could you be Lord? Don't let them change ya. Prossimo brano, i grandi. Un applauso a voi, spaccate! Il prossimo brano si chiama Dentro di me ed è un brano che ho scritto con l'aiuto di un amico, di un anche un po' un guru, perché quel ragazzo qua è tanta roba, e si chiama Tommy Cuti, quindi presto, adesso poi ti raggiunge sul palco. Tommy, quando vuoi, pronti? Sulle mani per Awa, la voce più fantastica dell'Italia del Nord. La finestra, ho il cuore a pezzi, sai che ho solo questo. Mille pensieri su quello che è stato, un vortice in testa, non c'è una torretta. Ora solo me stessa. E non vado in fretta, passerà la tempesta, passerà la tempesta. Non ha funzionato ma va bene. Ora sono una nuova me. Grazie Tommy. Quello che ho imparato mi appartiene. Non ho più paura di cadere. A volte il destino mi pone una sfida, mi rialzo più forte di prima. So bene che farò fatica, mi perfetta di corso in salita. In every buckle feel love is my shield, so me never fear. There is no place for the wicked man. Me never care, will be shedding my tears. Tutto quello che ti serve dentro di te. Tutto quello che ti serve dentro di te. Quindi impara a curarti da sola. Sei una donna diversa da ora. Smetti di piangere, asciuga le lacrime, alzati e vola. Così sarai più forte. Lei guarda dentro al cuore. Solo tu hai le risposte. Così sarai più forte. Da dentro al cuore. Solo tu hai le risposte. Era una volta sento che ora la forza è dentro me. E in ciò che ho sento un senso c'è. E non mi serve un migliore. Impara a curarti da sola. Sei una donna diversa da ora. Smetti di piangere, asciuga le lacrime, alzati e vola. Così sarai più forte. E guarda dentro il cuore. Solo tu hai le risposte. Oh. E così sarai più forte. E guarda dentro il cuore. Solo tu hai le risposte. Hai tutto quello che ti serve. Tu vuoi, non ne sei cosciente. Tuo passato che ti cerca sempre. Fa pugni con il tuo presente. Tu lo sai com'è. Com'è quando sono lì. Scorrere. Tu sei come me. Se tutto va in polvere. E trovi la forza per correre. Non scordarti mai chi sei. Anche quando piangi sei la stessa guerriera. È una giornata nera. Ricorda gli happy days. Non darmi retta, ruggisci, tu sei una leonessa. Sì, come va? Hai curato quello che ti serve dentro di te. Tutto quello che ti serve dentro di te. Quindi impara a curarti da sola. Sei una donna diversa da ora. Senza di piangere, asciuga le lacrime, alzati e vola. Sarai più forte. Dai, guarda dentro il cuore. Solo tu hai le risorse. Sarai più forte. Guarda dentro il cuore. Dai le risposte. Yeah. Ma la posso dire una cosa? La posso dire una cosa? Spara. Raga, questi che ne sanno di fila in questura, delle mille facce della mia cultura, è la melanina ciò che li cattura. Io non ho dei dubbi sulla mia natura. Quando io rappo è in italiano, anche se parto resto un italiano. La prima volta che ho detto ti amo, ti giuro l'ho fatto in italiano. Mi chiamo Tommy Cuti. Domani esce il mio nuovo pezzo, si intitola Milano Be Like. Andatevelo a beccare, Tommy Cuti. Grazie, thank you, Tommy, Awa. Grazie. Ti voglio bene, sister. Oh, abbiamo finito, raga. Ci vediamo alla prossima. Awa Fall. Thank you. La mia band, Tommy Cuti. Grande. Fantastico. Fantastica. Tommy Cuti, Awa Fall. La sua band. Siete... Era una sorpresa quella super di Tommy Cuti. Sorpresone, sorpresone. Paola, dobbiamo correre. Dobbiamo correre, abbiamo due interventi politici, sono gli ultimi. Due interventi e poi abbiamo gli ultimi artisti, quindi insomma... Poi vi facciamo ballare. E abbiamo con noi, facciamo di salire sul palco, una rappresentante dei giovani palestinesi d'Italia. Un intervento doveroso, necessario oggi su questo palco. Ciao Alemma. Che microfono questo possiamo te dare qua nella nuve di fumo? Ovviamente per POQ questo intervento è importantissimo. I giovani palestinesi sono, lo sapete, un'organizzazione politica giovanile che prende parte al movimento di liberazione palestinese. Portate le istanze palestinesi nelle scuole, nelle università. Vi battete per le libertà di tutti gli oppressi. E a te, Alem, a te. Lasciamo la parola ringraziandoti. Grazie mille ai partigiani in ogni quartiere per averci invitato in una giornata così importante, così significativa per tutti noi. E leggerò un intervento. Quando il 25 aprile del 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale dichiarò l'insurrezione generale, Sandro Pertini leggeva alla radio queste parole: cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire. La scelta lasciata davanti all'occupante era chiara: terminare l'occupazione o la morte. Perché davanti al nazifascismo non possono esserci scelte intermedie, e davanti al fascismo portato avanti dal sionismo non può esserci che una sola rivendicazione: la liberazione della Palestina dal fiume al mare. Da antifascisti, come organizzazione che riconosce e fa propri da sempre i valori della resistenza partigiana, aborriamo le dichiarazioni di chi, come il sindaco di Milano Salo, il presidente dell'ANPI provinciale di Milano Minelli, si nasconde dietro formule che mostrano semplicemente la loro codardia. Questi personaggi, in nome di una neutralità che parteggia per l'oppressione, dichiarano di voler evitare il derby Palestina-Israele. Vi chiediamo, cos'è un partigiano se non chi, allora come oggi, si schiera coraggiosamente contro il suo oppressore? Essere antifascisti oggi vuol dire combattere con ogni mezzo possibile l'occupazione sionista. Significa far luce sulle responsabilità che i governi e la stampa italiana hanno avuto e continuano ad avere nel coprire e finanziare il progetto di pulizia etnica su cui si fonda Israele, e di cui questo genocidio è solo l'ultima e più orrida manifestazione. Il fascismo oggi non è la Meloni, come il sionismo non è Netanyahu. Il fascismo è incarnato nell'impotenza e il nichilismo che permeano la società italiana. È il degrado morale e culturale della società. È la posizione interventista di tutto l'arco parlamentare. Il fascismo sono tre ragazzi palestinesi arrestati perché lo Stato italiano vuole criminalizzare la resistenza palestinese come qualsiasi altra resistenza, mentre migliaia di cittadini italiani arruolati nell'esercito di occupazione israeliano possono tranquillamente andare a Gaza e scannare donne e bambini. La lotta in Palestina ci dice che finché saremo dominati da liberalismo e capitalismo non ci sarà alcuna liberazione. Infatti la causa palestinese è molto più della causa nazionale del popolo palestinese contro il colonialismo sionista. La causa palestinese è la causa globale degli oppressi che lottano contro il sistema economico, sociale e ideologico che alimenta il sionismo e ne replica i metodi di dominio. La resistenza di ieri è stata tradita, ma oggi abbiamo una scelta: tradirla anche noi o rifare nostri quegli ideali. Dopo 200 giorni di genocidio, la resistenza vive e combatte dalle macerie, dal sottosuolo, in mezzo agli ulivi. La resistenza palestinese continua a eliminare i soldati sionisti e a distruggere i loro carri armati. Israele sta compiendo un vero atto terroristico. Vuole distruggere il popolo di Gaza per allontanarlo dalla resistenza. C'è un solo problema: la resistenza è il popolo e il popolo è la resistenza. La resistenza palestinese ci sta insegnando qualcosa che ci hanno costretto a dimenticare: che la liberazione non è solo un ideale, ma è possibile e avverrà con buona pace dei sionisti e dei fascisti del mondo. Non accettiamo chi piange i nostri morti e non sostiene la nostra vendetta e la nostra liberazione. Chi non sostiene la resistenza palestinese sostiene l'altra parte, cioè il colonialismo. A voi la scelta. I palestinesi non hanno bisogno di lacrime per i loro morti, hanno bisogno che ognuno prenda il proprio posto nella liberazione. Dall'Italia blocchiamo la guerra e il sostegno economico e politico a Israele, fino alla vittoria, fino alla liberazione, fino al ritorno. Lottiamo guardando alla resistenza palestinese come faro, ora e sempre. Resistenza! Ora e sempre! Resistenza! Resistenza! Grazie. Wow. Grazie Alem. Grazie. Palestina libera! Va bene, allora, il nostro soppalco si è trasformato nella prua di una nave, si è trasformato in tante cose. Questa sera adesso diventa un pulpito su cui Dario del collettivo, anzi dell'Assemblea Rebelot, dell'Assemblea Universitaria che si è formata a ottobre del 2023 statale, ci farà una lectio magistralis. A te, Dario. Sei pronto, Dario? Spiegaci un paio di cose, però serve il microfono. Dario, ragazzi. Microfono di Dario. Su. Non abbiamo Dario, ragazzi, il soppalco. Fonici. Microfono. Fonici, ci serve voce in soppalco. Dario. Microfono trabattello, microfono soppalco. Microfono trabattello. Ok, ci siamo. Se no, Dario, agilmente Dario, esci, scendi e fai la lezione da qua. Esatto, abbiamo un gelato. Allora, siamo intanto lo anticipiamo noi che, che l'Assemblea, scusate, Universitaria Rebelot ha occupato il rettorato questo lunedì proprio per chiedere un incontro pubblico sul rapporto fra l'università statale e le università palestinesi e israeliane. Ci siamo, Dario, a te. Buonasera a tutte e tutti e buon 25 aprile. Volevamo partire oggi da una parola per noi fondamentale, solidarietà. Solidarietà significa non essere indifferenti, significa scegliere di non stare in silenzio, significa scegliere di non essere complici. In questo momento per noi è impellente la necessità di non tacere di fronte al massacro pianificato del popolo palestinese, di opporci con forza alla complicità forzata a cui le nostre istituzioni ci vogliono portare. Non possiamo non riconoscere in chi ci governa delle corresponsabilità gravi con il progetto coloniale portato avanti dall'entità sionista. Ci forzano a collaborare attivamente con aziende produttrici di morte e istituzioni accademiche israeliane dentro i luoghi della nostra stessa formazione. Vogliamo dire che non possiamo accettare di studiare in un'università che non si espone e che silente collabora con chi direttamente è coinvolto nel genocidio in atto nel territorio palestinese. Per questo siamo solidali, per questo decidiamo di agire dentro le nostre università per pretendere una formazione universitaria decoloniale e demilitarizzata. Militarizzare le università vuol dire militarizzare la società e questo si vede nell'imponente ondata repressiva che ha caratterizzato gli ultimi tempi. Violenze e provvedimenti per studenti o studentesse che si assumono la responsabilità di non tacere. Le forze dell'ordine occupano troppo spesso gli spazi universitari e troppo spesso svolgono funzioni di puro controllo politico del territorio. Da Napoli a Torino il governo Meloni esprime senza pudore la realtà del suo indirizzo ideologico. Cavalcando l'idea della crisi perenne, il nostro esecutivo sforna un reato al giorno. Questo dunque è il nuovo fascismo. Repressione costante, giustificata da una crisi costante. Vogliamo rompere questo cerchio, vogliamo costruire una solidarietà attiva contro tutte le oppressioni, insieme per una società davvero libera dal fascismo. Per questo non possiamo che chiamare alla resistenza chi, come noi, non vuole più tacere contro l'indifferenza, contro il fascismo. Grazie Dario. Una lezione chiara. Una lezione chiara e forte, e adesso sappiamo che volete ballare perché fa freschino, li stiamo aspettando trepidanti. Non li presentiamo neanche, diciamo solo il nome perché spaccano. Dove sì, sono? Sono là dietro con sono? I loro fiati, stanno per salire sul sono? Palco. Facciamo di sentire tutto il vostro calore. Sono per voi Mephisto Brass. Grande Dario. Con un po' con Massimino, con il mercato, con quello che si poteva. Thank you. Così tanti antifascisti presenti a Milano il 25 aprile, la festa della liberazione, in culo al governo Meloni! Noi siamo gli anticorpi di questo sistema. Siamo una band strumentale di Milano, non abbiamo molte parole da dirvi, giusto un paio. Strumentale come Fisto Brass, sassofono su Darule Gran Class. Questa roba punge tipo pianta grass, è piena di sogni e tipo nanana. Balla che ti passa, che sta vita è pazza. Se palpiere sul cemento scendi subito in piazza. Non puoi stare calmo, molla tutto il palo, alza il volume per il gusto di bombardo. Questa roba che ti cura l'artrite, cassa in quattro spinge come dinamite. Fuori piovono le bombe, non ne posso più. Balla tutto cico, spingi quelle mani su, quelle mani su, quelle mani su. Balla tutto cico, spingi quelle mani su.

Grazie a tutti, è un piacere e un onore essere qui a Partigiani in ogni quartiere. Ci teniamo a ringraziare tutta l'organizzazione che fa... Adesso faccio... Ci teniamo a ringraziare l'organizzazione che dà modo a questo festival di avere vita e di avere continuità negli anni. È sicuramente un festival da difendere. Fate un cazzo di applauso al collettivo antifascista di Milano Sud e tutto lo staff di Partigiani in ogni quartiere. Ringraziamo anche Jasko, il nostro fonico, che ci ha prodotto il disco e ci segue in queste folli imprese. Vi salutiamo con l'ultimo pezzo, Amar Core. Grazie mille! Ora è sempre resistenza! Palestine! Palestine libera! C'è la nebbia, ragazzi. Che bomba! Wow! Che bomba! Non si capisce più niente, Paola. Sì. Stiamo andando in dirittura finale, prima del penultimo artista. Abbiamo con noi Norberto, che Norbi leggerà un intervento di partigiani in ogni quartiere, nostro. Ok, ultime parole per questa sera. Non possiamo che lasciarvi con l'intervento di P.O.Q. Alta! Non ad arrivare. Va bene, ufficio oggetti smarriti, portalo qua dietro. Abbiamo chiavi un della macchina. Per Norbi. Chiavi della macchina qua dietro. Abbiamo un microfono per Norbi. Allora, microfono per Norbi. Vogliamo un attimo fare l'ultimo intervento di sintesi attraverso la voce di partigiani di ogni quartiere, che ha una rete appunto che dal basso da 17 anni sta portando avanti questa iniziativa. Norbi, vai tu. Vai. Ciao a tutti e tutte. Partigiani in ogni quartiere festeggia oggi le sue 17 primavere. Sono passati 17 anni da quando abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza politica. In questi anni abbiamo costruito una comunità molte volte ampia, a volte esausta, ma sempre in grado di costruire relazioni e che continua a camminare assieme. In questo tempo la nostra comunità ha attraversato tutti i quartieri di questa città, cercando di coltivare semi di resistenza e cercando di organizzare questa giornata in totale autogestione come momento di condivisione collettiva, di lotta e di festa. In questi anni la linfa siete stati voi, i compagni e le compagne vicine e lontane, che sono stati l'argine di ciò che possiamo arginare. Oggi è un giorno di festa, ma in una qualche forma ci sentiamo di essere severi. Dobbiamo essere severi nel costruire un argine a ciò che vogliamo arginare, ossia l'orrore dei nostri tempi. Severi nel contrapporci alla fascistizzazione della nostra vita quotidiana, alla marcificazione del nostro tempo libero, allo smantellamento della sanità e alla proliferazione di nuovi e vecchi fascisti organizzati. Severe nell'attualizzare la memoria, nell'immaginare nuovi modi di costruire cultura antifascista e praticare antifascismo militante quotidiano. Pretendere che Ilaria sia libera e libera subito, così come siano liberi e libere tutti gli antifascisti e le antifasciste che sono vittime della repressione. Severi nel porre i nostri corpi e le nostre intelligenze a supporto della popolazione palestinese sottoposta alla brutalità israeliana. Severe nel non accettare che dal 7 ottobre 30.000 civili siano la lotta al terrorismo. Severe nel dare il nostro supporto decolonizzatore alla Palestina e di chiedere un cessate il fuoco immediato. Severi con noi stessi, perché oltre al mondo che c'è là fuori dobbiamo porre un cambiamento a partire dalle nostre esistenze. Serve essere severi nel decolonizzare i nostri rapporti, la nostra maschilità tossica e il nostro modo di porci quotidiano anche nell'ambito militante. Oggi vogliamo e possiamo festeggiare insieme, lo dobbiamo fare però consapevoli che senza trasformare la nostra rabbia in partecipazione restiamo un argine da cui non si vede l'orizzonte, ma da cui si costruiscono nuovi muri. Questo è il giorno della liberazione, la liberazione di chi è oppresso, la liberazione di chi ci ha liberato nella certezza di un mondo più giusto. Questo mondo non è qui, ma con i nostri porsi possiamo trasformare il presente. Un sasso qua, un sasso là, un sasso per la libertà, diceva il nostro caro compagno Hafiz. Partigiani in ogni quartiere, Palestina libera in ogni quartiere. Grazie a tutti e a tutte. Grazie, Norbi. Wow. Con severità, un rapper della storia dell'hip hop italiano. Severità. Sì. La pace è la risposta, lo dice il suo ultimo pezzo. Lasciamo il palco a te. Grazie a tutti, buonasera. Chiesa Rossa Milano, zona 5, come stai? Viviamo in una strana epoca. Medioevo, medioevo. In cui è sempre più difficile combattere per degli ideali veri. Un saluto e un grazie a tutti i partigiani in ogni quartiere. Benvenuti nel Medioevo degli anni 2000. Piacere, sono Inoki. Tipo in ciabatte e macete, Lola coi cani hanno sete. Taglio e difendo la siepe, chiudo e controllo la rete. Troglo, diti, para, siti, animali, medievali, luridi infami, putride mani, chiazze di sangue, merda di cani, medio, evo, siedio, piedio, preghio, sprechio, imprechio, pratichi riti satanici, macini rituali magici, oh, cerchi la tua soluzione, sposi una cospirazione, cerchi le streghe per metterle a rogo, modalità inquisizione, vivo il nuovo medio, evo, nel millennio, tre, trovo la mia pace con il suono e con il rap, crisi da psicopatia, la pandemia nella mente, folle globale pazzia, la gente che uccide la gente, armi da fuoco, forze dell'ordine in preda, bimbi che bramano il cash, in polvere cannule schede, medio evo. Medio evo, su, medio ego. Su, su, su. Medio evo, su, medio ego. Su, su, su. Medio evo, medio ego. Benvenuti nel medio ego. Medio evo. Medio evo, medio ego. Medio evo, medio ego. Medio evo, medio ego, ego, ego. Flebo di odio, intolleranza endovena. Lega Salvini, l'Italia razzista, ignoranza che prende la scena. In attesa di un rinascimento, immersi nello sbattimento, persi in un mare di info, fermi sospesi nel limbo. Mastica, plastica, mangia, ingurgita ogni menzogna mediatica, ogni bellezza chirurgica. Donne gonfie di silicone e di botox, sempre pronte a un aperitivo ed un detox. Crisi, covid, medio, evo, insta, facebook, medio, ego. Non riesci a pagarti l'affitto, però fai un balletto su tiktok. Non metti niente nel frigo, però ti fai il selfie più figo. Nuovo disordine globale, ciao. Trasformazione, partigiano, salvami, è una rivoluzione. Cerca te stesso, quando lo trovi salutamelo, è un folle processo in progresso. Umano non fare lo stupido, il medio evo. Medio evo, medio ego. Su, è una pazza epoca. Medio evo, medio ego. Su, medio evo, medio ego. Medio ego. E dimmi free Gaza, più forte free Gaza. Gaza. Ancora free Gaza. Gaza. Più forte free Gaza. Free Gaza. Grazie a tutti di essere venuti qua questa sera a celebrare, a festeggiare il 25 aprile, la festa in cui i nostri nonni hanno cacciato via i fascisti. Milano è una città importante per questa cosa. In piazzale Loreto hanno messo il più importante a testa in giù, non dimentichiamocelo mai. Li vogliamo sempre tutti a testa in giù. È un onore per me essere su questo palco dopo tantissimi bravissimi musicisti. Vorrei un applauso per tutti i musicisti che sono stati qua questa sera. Io sono solo un povero rapper che viene dall'underground. Vengo da giù, vengo da giù. Vengo da, vengo a tutti da, quelli vengo che vengono da, dall'underground, da, dal basso, dalla periferia. Vengo da giù, vengo da giù. Vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da. Vengo da sotto. Vengo da dove c'è l'aria pesante, da dove non si respira, da dove vige il pensiero costante di andarsene in fretta, dove si ruba e si scappa, dove lo spazio è ristretto, costretto a combattere la mia battaglia. Vengo dal basso, vengo da dove si suda ogni pasto, dove se sbagli la paghi, ma paghi anche quando fai giusto ogni passo. Vivo qui sotto, sull'ascensore di città meno tre. Vieni a trovarmi, ti mostro il posto più sotterraneo che c'è. Cerco spiragli, luce che brilli e che abbagli, raggi che taglino e spezzino il buio che regna su questi binari. Abituati ai ladri che rubano a casa dei ladri, vipere, blatte, schiacci, scarafaggi, certificati underground. Vengo da giù, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da giù. Vengo da giù, vengo da giù. Vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da, vengo da. Vengo dal mondo reale, dove non vale chi vale, vale chi paga, vale chi spende, vince l'infame, il povero perde. Non vengo da un talent, ma il talento mi ha tolto dal male, mi ha messo nella posizione di essere ancora l'eterno rivale. Scopri il divario, se apri sipario, divento sicario, invento e concentro il mio fuoco, mi trasformo in killer del vocabolario. Vengo dal niente, dal vero disagio, lo rendo un dipinto, un'opera d'arte per ogni cristiano che è parte di questo disegno. Agisco distinto, la fame mi rende indifferente, spinto spinto dall'oscurità delle viscere ad essere un cane che morde, non lascia niente, sgranocchia ogni osso, non molla la preda. Ulule sveglia il quartiere con la luna piena dalla vereda underground. Vengo da giù, vengo da giù. Vengo da giù. Vengo da giù. A tutta la gente delle zone di Milano, zona 5 dove sei. Zona 6, zona 7, zona 9, zona 2, solo amore. Dov'è la mia birra? Voglio un brindisi a tutti i partigiani, a tutti i combattenti. Un brindisi a Valerio, un brindisi a Lorusso, un brindisi a Giorgiana, un brindisi a Carlo, un brindisi a Orso, ti voglio bene bro, un brindisi a Afiz, ti voglio bene bro, a tutti i pirati. Non è facile essere pirati in un mare di merda e navigare controcorrente. Grazie a tutti i partigiani, questa la dedico ai pirati. L'ho fatta con Tedua, dopo canta Tedua, ma non c'è lui. Solo rap bro. Stai cercando di fottere me fra wild bandana, lama nella kefia, medio ego, urbana commedia, nella giungla e cuccioli di Achela. Refiliamo la fiducia, rinforziamo questa squadra, ritorniamo dalla strada fino a Zena con i colpi di katana, le palanche nella sacca, rosso blu sulla casacca con la lacca. La catena dello scooter spaccata da una tenaglia, la maglia macchie di sugo, buco fatto dal fumo, riesumo è sul muro. Bro, il mio nome è ancora leggenda, nel gioco ho messo la tenda, pro fuoco sul beat con Tedua, a chi è che va fuori il tempo? Spiega, la NASA non ci rileva, la casa non ci rilega, la storia non si rinnega. Ragazzi, vertigini lividi, vividi, scrivi di miti, di spiriti liberi, antipodi, antidoti, rap senza limiti, imiti, mini ridicoli. Noi ancora vivi nei vicoli, schivo gli spigoli, scrivo sinonimi, articoli e rappers che diventano piccoli. La vecchia, la nuova, la crema del blocco soffia sulla tua farina di corpo, bro. Non mi avrete mai cru, di cosa avviai, neanche con Miami vai, con Miami un PI. E per me non c'è tempo da perdere, fruga nelle tasche un frecchio e te hai da scendere. Passamela dai, passamelo sai, via dalle volanti nella mia city by night. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle non mi avrete mai. Ci ascoltiamo il rap del mio bro che non è presente. Bless Tedua. Inoki, lo noti, sono sceso per la strada, siamo pochi nei giochi, a farlo con la rabbia dentro agli occhi, nei blocchi, non lo faccio per fama, lama opi, mi trovi alla stessa fermata, tutta Genova con me, la mia storia mi precede, perché sto incollato al rap, tipo troia a marciapiede, è lo slang del clan, nel club, sto nel jet set, in jet lag, se una rima mia delle tue ne vale tre, vecchie nuove leve, la generazione che ha registratore, fa registratore di storie vere, indagati i miei pirati, impilati, pacchi inviati, vendi pezzi all'atto alle che poi vengono tirati, fotte sega della merda che propinano, mi spompinano i media che si ostinano a dar fake news dal titolo Milano. Tutti quei crew spariscono, senti il micro fare, partigiani in ogni quartiere, Palestina in ogni quartiere. Knus, di cosa avviai, neanche con Miami vai, insomma ni un PI. E per me non c'è tempo da perdere, fruga nelle tasche un frec, chiede se hai da accendere. Passamela dai, passamelo sai, via dalle volanti nella mia city by night. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle non mi avrete mai. Milano come va? Un po' di amore per tutte le associazioni che hanno messo in piedi questa cosa, per i compagni e le compagne di Zambi, Lambretta, per Gaza Freestyle, per la Milano che combatte, la Milano che resiste. Quando dico Ino, tu mi dici chi? Ino, Ino, Ino, cazzo mi nomini, togli la virus, un applauso a DJ Virus, vai, rap. Oggi sto pulito, detox, prendo su una T dal bucato, bianca, parto col sorriso anche se dentro manca qualcosa, in testa prende forma un grosso punto di domanda. Ora, confuso, la serata non è stata easy, ho visto vecchi nuovi amici scoppiettando nella city, filosofeggiando sul divano, pensando ai vecchi tempi, al futuro, in un'altra notte di Milano, organizzando nuovi business, progetti, pensando a nuovi metodi per fare i maledetti. Cash quanto servono, cash quanto mancano, anche se ne facciamo con la pala, ci mangiano. Oggi sono in piedi presto, mi butto in doccia, sfrego il male con il sale grosso sei una pioggia di nuova energia, caccio via l'ansia, poi apro la finestra e aspetto una nuova aria. 2024, l'impianto è ancora vivo, fresco e pulito, così fresco e pulito, come va Milano? Fresco e pulito, così fresco e pulito, DJ Shaka per questo beat. Fresco e pulito, così fresco e pulito, vai Jenny Tides. Non vedo il vivo. Fresh and clean come Andre, Jamie è grande sopra il break del beat. Il flow è fresco come Peppermint. A fare il rap che è il king, vero hip hop, that's happening. Ti porto in paradiso, Led Zeppelin. Oggi sto pulito, resto dietro. Fumo solo un po' di Ace da un filtro di vetro. Gangia buona, per lei non esiste divieto. Spatti nella city, Fabiano, Cristo ti vedo. Tra giornate lunghe, in studio barricati bunker. Ci resto appeso con le unghie. In detox dalle chiacchiere degli altri, da questi che fanno i furbi. Da quando sentivo 60 Hz coi capelli lunghi. Ora la ruota gira. Faccio il cash, spendo il cash come opera prima. Sparo al centro, ho una buona mira. Fuori oggi c'è il sole, fresco e pulito, così fresco e pulito. 2024, l'hip hop ancora fresco e pulito, così fresco e pulito. Come va Milano? Fresco e pulito, così fresco e pulito. Amore per te, Patti. Fresco e pulito, così fresco e pulito. Awa. Oh, come va, bella gente? Vi state divertendo questa sera? Vi piace il sound? Sono venuto in DJ Set Style con il signor Virus. Un applauso a DJ Virus. Lo so, il rap ultimamente ha preso una piega un po' strana. La gente ha iniziato a pensare solo ai soldi. Si sono ammalati, non si sono messi il preservativo. Non si sono messi la sharp e si sono presi la trap. Un sacco di gente che fa rap come me si è presa la trap. Si è svegliata la mattina coi capelli viola. Dobbiamo stargli vicino, dobbiamo aiutarli, dobbiamo ricordargli che la strada ci insegna altre cose, l'hip hop ci insegna altre cose, l'hip hop non ci insegna a fare i reati. L'hip hop ci insegna a non fare i reati. Questo è un po' il messaggio che volevo mandare a tutti quanti voi, perché dici, sai, c'è un rapper, i rapper, troie, puttane, soldi, cocaina, no, al contrario.